as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui al Panel Rose, Radio Città Fucico 103.1, la trasmissione degli operai metalmeccanici. E ieri, come operai metalmeccanici della FIOM, io sono un dirigente nazionale, anche se non sembra, sono stato invitato ad andare all'udienza del Papa. La CGIL ha chiesto un'udienza al Papa, avete visto sui telegiornali e sui giornali, siamo stati lì al Vaticano. Per me era una cosa, diciamo, molto molto complicata, ma sono andato lì perché ero curioso, perché volevo sentire quello che Papa Francesco avrebbe detto, quello che avrebbe detto il mio segretario, e anche la reazione di chi era lì. Ecco, siamo stati lì, abbiamo intervistato prima Pasquini, che è un di Bologna, della CGIL di Bologna, della funzione pubblica. Poi abbiamo intervistato Valentina, che è la responsabile FIOM internazionale per l'Europa, alla fine dell'udienza, e sentiremo anche se l'audio è un po' così, sia Landini che Papa Francesco, che hanno fatto i loro interventi e sono state dette delle cose molto interessanti. Poi ci sentiremo per le conclusioni. Adesso però faccio questo omaggio non a Papa Francesco, ma anche se lui è molto contento che ha vinto l'Argentina, ma sa, io ho tifato l'Argentina perché chiaramente sono un terrone e tutti i terroni italiani si sentono anche argentini. Ci accomuna, quando si va a Buenos Aires sembra di stare a casa, si vedono delle cose, forse perché la gente è la stessa, insomma, ci sono tantissimi meridionali lì, tutti quanti noi lo sappiamo, e insomma, ci sentiamo un po' tutti argentini noi del sud Italia. E ci sentiamo poi alla fine per le conclusioni. Nascetto in mezzo a una via, come per sfizio in Dio, che ci facetto capire che tutto non può fornire. Rinta la periferia, cercando una buona via, pigliando a capo c'è vita. Per mille giorni su rai, sporche turrene e dolore, capono solo pensiero a diventare un campione, porta speranze in te casa, e chi non ha avuto niente, e non vorrei più a miseria, e vado restavi sola, con l'occhio aperto a sonnare, e tutta gente cantai Maradò, Maradò, e tutto stadio a Lucai, Maradò, Maradò, lucevo come una stella, senza paura fa guerra, e tutta curva cantai Maradò, Maradò, nascetta mani di as, Maradò, Maradò, facette tutto contento, vasai a maiesta terra. Non vuole una croce, a croce resero meglio, ma non si vennero mai a chi è padrone romano, si è caruto Gesù, perché non può care tu, che ti hai giocato ogni sfida. A certe lo presentai, un'amica vestuti bianco, che faceva impazzì, non si sentiva mai stanco, e fa cazzotto col tempo, che non c'era rete niente, si tiene un'anima vera. Fornuta partita, Diego non si può scordare, e tutta gente canta Maradò, e tutto stadio Lucai, Maradò, Maradò, lucevo come una stella, senza paure fa guerra, e tutta curva cantai Maradò, Maradò, nascetta mani di As, Maradò, Maradò, fa accetto tutto con tanto. Cosa io mai questa terra? Ole, ole, ole, ole. Diego, Diego. Ole, ole, ole, ole. Diego, Diego. Diego, Diego. Ole, ole, ole, ole. Diego. Cosa hay amai esta terra, riego de gloria este suelo. Cosa hay amai esta terra. Allora, siamo qui a Roma dal Papa, siamo in udienza dal Papa, ci sono anch'io, visto che faccio parte degli organi dirigenti nazionali della FIOM. Abbiamo Marco Pasquini. Marco Pasquini, funzionario pubblico CGIL di Bologna. Allora Marco, raccontaci un po' questo evento. Insomma, è un'occasione importante, voglio dire, il Papa è un Papa che ha messo al centro delle sue enunciazioni, del suo percorso, insomma, al centro del benessere delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori, quindi noi che rappresentiamo e proviamo a dare rappresentanza alle lavoratrici e ai lavoratori di questo paese, insomma ci pare che questa sia un'occasione di far mettere insieme il Papa, che è anche un capo di Stato, con le nostre rivendicazioni e le nostre politiche. Devo dire che fra i capi di Stato oggi rappresenta quello che più si avvicina a quello che noi diciamo quando parliamo di benessere delle persone e trovare le modalità per mettere al centro i loro bisogni e la loro vita. Quindi è un'occasione importante, penso che abbiamo fatto bene come CGL a mettere insieme questo incontro. Insomma, secondo te le ragioni si possono ricercare sulle posizioni del Papa che ha assunto in ultimo periodo sul lavoro? Beh, sul lavoro, su posizioni che ci accomunano, poi è chiaro che è un capo di Stato, ma è il capo della Chiesa e quindi non è che ci possiamo aspettare che il Papa su alcune questioni non dica quello che a un capo religioso aspetta di dire, ma sulle questioni che riguardano la società, il benessere delle persone dentro al sistema della società, sicuramente ci sono dei punti di contatto importanti. E su quelli dobbiamo lavorare. Quali sono questi punti in contatto? Il lavoro, la precarietà, la povertà, l'inclusione, sono tutti temi che la CGL porta avanti da anni e quindi su questi è bene sentire anche una voce autorevole come quella che il Papa oggi rappresenta. Ok, ti ringrazio Pasquini. Grazie a te. Ciao, grazie. Marco. Buona giornata. La ringrazio di cuore per aver accettato di incontrarci. Voglio ringraziare anche padre Leonardo Sapienza, padre Giovanni La Manna, padre Franco Imos, padre Davide Cini, il dottor Manuel Sanchez, il dottor Bruno Izzi, il dottor Giuseppe Chiraino per averci aiutato a realizzare questo incontro. Noi vogliamo essere un sindacato di strada per affermare i diritti della persona nei luoghi di lavoro e nel territorio. Ci rivolgiamo a lei, perché seguendo il suo insegnamento e abbiamo letto attentamente le sue encicliche, Laudato Si' e Fratelli Tutti, abbiamo trovato una grande consonanza sui problemi, sulle preoccupazioni che oggi travagliano l'umanità e il mondo. La sua costante ricerca del dialogo tra diversi, l'invito alla fratellanza del prendersi cura degli altri, sono la condizione per realizzare qui e ora quella rivoluzione culturale, quella trasformazione sociale di cui anche noi avvertiamo il bisogno per dare una cura al nostro pianeta. Un cambiamento profondo è quello di cui abbiamo bisogno per un diverso rapporto tra uomo e natura, per un nuovo umanesimo affinché si superi la logica del mercato del profitto e si superi lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. L'idea di un'ecologia integrale e una nuova visione economica, sociale ed ambientale che pone al centro la persona è senz'altro un elemento fondamentale per respingere un'inaccettabile cultura dello Stato. Si muove innanzitutto la volontà comune di essere costruttori di pace e mettere fine a una guerra causata dalla grave invasione russa di cui la prima vittima è il popolo ucraino. Un conflitto armato che torna nel cuore dell'Europa e che si aggiunge a quelli in corso da tempo in Africa, in Medio Oriente e in America Latina. Tanto che lei giustamente ha detto tante volte che siamo nel pieno di una terza guerra mondiale combattuta a pezzi. Dall'inizio di questo drammatico conflitto si rincorrono dichiarazioni e minacce di ricorso all'arma nucleare e quando si supera questo limite non ci sono più guerre giuste o sbagliate, perché in gioco è il futuro della vita sul pianeta. Siamo contrari alle politiche di riarmo, perché è il momento di investire sulla pace, sulla diplomazia, sulla qualità della vita. È il momento che tutti si operi per far tacere le armi, per un cessato il fuoco, almeno nel periodo di Natale, cattolico e ortodosso, finalizzato a conquistare un negoziato. È il momento di rilanciare l'appello promosso nel 1955 da Einstein e Russell, anche da lei ripreso nella prima settimana del conflitto, che chiedeva a tutti i governi del mondo di rinunciare alla guerra e trovare i mezzi pacifici per la soluzione di tutte le controversie. Guerre, crisi ambientali, carestie, ingiustizie sociali colpiscono in primo luogo i paesi più poveri, costringendo tante persone a lasciare le proprie terre. Fuggono sperando in un futuro migliore. Noi, insieme a tante associazioni laiche e cattoliche, portiamo aiuti, l'abbiamo fatto, abbiamo portato medicinali e vivere, abbiamo contribuito a dare vita a corridoi umanitari anche in Ucraina per aiutare tante persone a sfuggire da quella guerra. Noi non guardiamo il colore della pelle, la forma degli occhi di donne, uomini, bambini che fuggono dalla violenza e dalla fame. L'accoglienza e la solidarietà noi cerchiamo di praticarla quotidianamente. E vorrei dire che in un paese come l'Italia, dove calano le nascite ed aumentano gli anziani, in cui ogni anno sono di più i giovani italiani costretti ad andare all'estero a lavorare e i migranti che si fermano nel nostro paese, non è vero che gli stranieri ci rubano il lavoro. Il lavoro è stato svalorizzato, tanto che si è poveri anche a lavorare. La stessa rivoluzione tecnologica in atto potrebbe offrire migliori condizioni di vita e di lavoro investendo sull'intelligenza e l'autonomia dei lavoratori. Invece si stanno creando nuove divisioni. C'è ancora troppo lavoro precario, caporalato, lavoro nero, sfruttamento, una disoccupazione che cresce purtroppo per i giovani e le donne ed in particolare per il mezzogiorno. Così si mortifica la speranza del futuro di intere generazioni perché si impedisce la costruzione di progetti di vita e si riducono anche gli spazi di democrazia e purtroppo aumentano le infiltrazioni della criminalità organizzata e la corruzione. Ed ancora nell'anno 2022 si continua a morire sul lavoro. Sono più di 1000 le persone, anche quest'anno, che sono già morte. È come se ogni giorno 3 persone che vanno a lavorare non rientrano più a casa la sera. Questa è una vera e propria strage che va fermata. Rimettere al centro il lavoro. Un diritto a tutte le forme di lavoro per garantire un lavoro dignitoso, una giusta retribuzione, la libertà di espressione, la sicurezza e il riposo, la pari opportunità tra uomo e donna, l'informazione e la partecipazione alle scelte di impresa. E per questo secondo noi è centrale conquistare il diritto all'istruzione e alla formazione permanente, perché l'accesso alla cultura, alla conoscenza è un elemento fondamentale di crescita per la libertà e l'autonomia delle persone. Centralità quindi della persona, in particolare della sua predominanza sull'economia, sul mercato, sul profitto, sono i presupposti irrinunciabili per un nuovo modello di sviluppo. Non un lavoro qualunque, quindi, ma un lavoro stabile che sia finalizzato alla difesa e al risanamento del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla salute, alla cultura, alla conoscenza, alla formazione. Proponiamo quindi anche un'idea dell'impresa in cui tutti i soggetti possono essere protagonisti attivi e in cui prevale la responsabilità sociale. In una parola, è il momento di redistribuire al lavoro la ricchezza che il lavoro produce, di tassare la rendita finanziaria e di colpire la speculazione. E infine vorrei dire che è stato per noi molto importante, è un fattore di grande gioia vedere insieme per la pace e la giustizia sociale il 5 novembre scorso Piazza San Giovanni a Roma Roma piena di bandiere rosse delle CGIL e quelle di tante associazioni cattoliche. Quella bellissima giornata ha reso evidente l'impegno comune e il percorso che possiamo fare insieme, laici e cattolici, per cambiare una società fondata sulla competizione, l'egoismo, lo sfruttamento, le tante forme di solitudine, e per affermare invece insieme il valore dell'eguaglianza, della differenza di genere, della fratellanza e del riconoscimento delle diversità quale fondamento dell'eguaglianza stessa. Ecco, vorrei concludere come lei ha detto, oggi abbiamo bisogno di costituirci in un noi che abita la casa comune. Grazie. A volte proprio a causa di quel sistema perverso che si definisce tecnocrazia, ha in parte deluso le aspettative di giustizia in ambito lavorativo. E questo succede, chiede anzitutto di ripartire dal valore del lavoro come luogo di incontro tra la vocazione personale e la dimensione sociale. Lavorare permette alla persona di realizzare se stessa, di vivere la fraternità, di coltivare l'amicizia sociale, di migliorare il mondo. Le encicliche Laudato Si e Fratelli Tutti possono aiutare a intraprendere percorsi formativi che offrono motivi di impegno nel tempo che stiamo vivendo. Il lavoro costruisce la società. Esso è un'esperienza primaria di cittadinanza in cui trova forma una comunità di destino, frutto dell'impegno e dei talenti di ciascuno. Tale comunità è molto di più della somma delle diverse professionalità, perché ognuno si riconosce nella relazione con gli altri e per gli altri. E così, nella trama ordinaria delle connessioni tra le persone e i progetti economici e politici, si dà vita giorno per giorno al tessuto della democrazia. È un tessuto che non si confeziona a tavolino, in qualche palazzo, ma con l'operosità creativa delle fabbriche, delle officine, delle aziende agricole, commerciali, artigianali, nei cantieri, nelle pubbliche amministrazioni, nelle scuole, negli uffici e così via. Viene dal basso, dalla realtà. Cari amici, se richiamo questa visione perché tra i compiti del sindacato c'è quello di educare al senso del lavoro, promuovendo una fraternità tra i lavoratori. Non può mancare questa preoccupazione formativa. Essa è il sale di un'economia sana, capace di rendere migliore il mondo. In effetti, i costi umani sono sempre anche costi economici. E le distorsioni economiche comportano sempre anche costi umani. Rinunciare a investire sulle persone per ottenere un maggior profitto immediato è un pessimo affare per la società. Accanto alla formazione è sempre necessario segnalare le storture del lavoro. La cultura dello scarto si è insinuata nell'impiego dei rapporti economici e ha invaso anche il mondo del lavoro. Lo si riscontra sempre là dove la dignità umana viene calpestata dalle discriminazioni di genere. Perché una donna deve guadagnare un uomo? Appena si vede che comincia a ingrassare la mandano via, per non pagare la mandano. Perché si devono ritardare le scelte di vita a causa di una precarietà cronica? Occorre nella cultura che sono ancora così poco tutelati, troppe persone soffrono per la mancanza di lavoro o per un lavoro non dignitoso. I loro voti meritano l'ascolto, meritano l'impegno sindacale. In primo luogo la sicurezza dei lavoratori, il vostro segretario generale ne ha parlato, ci sono ancora troppi morti, io li vedo sui giornali, ogni giorno c'è qualcuno, troppi mutilati e feriti nei luoghi di lavoro. Ogni morte sul lavoro è una sconfitta per l'intera società, è una sconfitta. Dare i loro nomi perché sono persone e non uomini. Noi pensiamo che si mettano sullo stesso piano il profitto e la persona. L'idolatria del denaro tende a calpestare tutto e tutti e non custodisce le differenze. Si tratta di fermare ad avere a cuore la vita dei dipendenti e di educarsi a prendere sul serio le normative di sicurezza. Solo una saggia alleanza può prevenire quegli incidenti, tra virgolette, che sono tragedie per le famiglie e le comunità. Una seconda preoccupazione, e questo è brutto, è lo sfruttamento delle persone. Ci sono forme violente come il caporalato e la schiavitù, dei braccianti in agricoltura, nei cantieri edili, di altri luoghi di lavoro, la costruzione a turni massacranti, il gioco al ribasso dei contratti, il disprezzo della maternità, come ho detto prima, il conflitto tra lavoro e famiglia. Quante contraddizioni e quante guerre tra poveri si consumano intorno al lavoro. Negli ultimi anni sono aumentati i cosiddetti lavoratori poveri, tra virgolette, persone che pur avendo un lavoro non riescono a mantenere le loro famiglie e a dare speranza per il futuro. Il sindacato, ascoltate bene questo, il sindacato è chiamato ad essere voce di chi non ha voce. Dare voce a chi non ha voce. In particolare vi raccomando l'attenzione per i giovani, spesso costretti a contratti precari, inadeguati, anche schiavizzanti. Vi ringrazio per ogni iniziativa che favorisce politiche attive del lavoro e tutela la dignità delle persone. Inoltre, in questi anni di pandemia, è cresciuto il numero di coloro che presentano le dimissioni dal lavoro. Giovani e meno giovani sono insoddisfatti per la loro professione, per il clima che si respira negli ambienti lavorativi, nelle forme contrattuali e preferiscono rassegnare le dimissioni. Si mettono in cerca di altre opportunità. Questo fenomeno non dice il disimpegno, ma la necessità di umanizzare il lavoro. Anche in questo caso il sindacato può fare opera di prevenzione, puntando alla qualità del lavoro e accompagnando le persone verso una ricollocazione più compacente al talento di ciascuno. Cari amici, vi invito ad essere sentinelle del mondo del lavoro, segnando alleanze e non contrapposizioni esterne. La gente ha sete di pace, soprattutto in questo momento storico, e il contributo di tutti è fondamentale. Educare alla pace anche nei luoghi di lavoro, spesso segnati da conflitti, può diventare segno di speranza per tutti, anche per le future generazioni. Grazie per quello che fate e che farete per i poveri, i migranti, le persone fragili e con disabilità, i disoccupati. Non tralasciate di prendervi cura anche di chi non si iscrive al sindacato perché ha perso la fiducia, e di fare spazio alla responsabilità giovanile. Mi affido alla protezione di San Giuseppe, che ha conosciuto la bellezza e la fatica di fare bene il proprio mestiere e la soddisfazione di guadagnare il pane della famiglia. Guardiamo a lui e alla sua capacità di educare attraverso la vita. Auguro un Natale sereno a tutti voi e ai vostri cari. Il Signore vi benedica, la Madonna custodisca. Se potete, pregate per me. Grazie. Allora, siamo appena usciti dall'udienza del Papa, abbiamo sentito un Landini commosso, che non l'avevo mai sentito in vita mia. Il Papa ha più compagno di molti sindacalisti italiani. Siamo qui con Valentina della FIOM Internazionale. Dici un po' le tue impressioni e anche le valutazioni. Beh, innanzitutto ha fatto una grande apertura, perché nel momento in cui il Papa ti dice non c'è lavoro senza sindacato, cioè non c'è sindacato senza lavoro, ma non c'è lavoro libero senza sindacato, diciamo che è una relazione programmatica rispetto a quello che dovrebbe essere il sindacalismo internazionale. Penso sia stata una giornata, cioè un fatto storico quello di questo incontro, anche un po' inusuale, no? Se vuoi, però credo che sull'alleanza, anche sulla pace, cioè sulla mobilitazione in cui abbiamo avuto la convergenza, come è sempre stato poi tra di noi, tra il mondo laico e quello cattolico, le grandi marce della pace, il movimento pacifista italiano, è stata importante la manifestazione del 9 di novembre e poi ovviamente quella che ci sarà, la mobilitazione che ci sarà adesso tra il Natale cristiano e quello ortodosso per chiedere un cessate il fuoco e una conferenza di pace. Oltre a quello, credo che questo è un Papa che ha avuto la forza di prendere posizione anche difendendo le ONG che nel Mediterraneo salvano i migranti, e quindi penso che sui temi ovviamente dei migranti, della povertà, della pace, siano dei temi su cui si possa e si debba cercare una convergenza anche con tutto il mondo cattolico, permanendo ovviamente poi delle distanze su altri temi, non dell'autodeterminazione, delle libertà individuali, che ovviamente sulle quali ognuno continua ad avere il proprio giudizio, però penso che sia stato un fatto importantissimo l'incontro di oggi, che ci conferma che appunto dobbiamo continuare a cercare di convergere, allargare la nostra lotta con quanti ci vogliono fare compagnia durante il cammino. Grazie Valentina. Allora, avete sentito Valentina Orizzani, all'inizio della puntata avete sentito Pasquini della Funzione Pubblica, Valentina Orizzani della FIOM, responsabile del settore informatico, ma anche una responsabile del FIOM internazionale settore Europa. Meglio di lei chi poteva descriverci quello che è accaduto? È stata molto chiara la Valentina. Io vorrei solamente dire che è vero, le posizioni comunque, così come ha detto Valentina, su alcuni argomenti sono distanti, soprattutto sugli argomenti sulle donne, su alcune cose che comunque sono da anni che contestiamo alla Chiesa, in cui non ci troviamo. Però io vorrei dire anche un'altra cosa. Io l'ho sentito Papa Francesco, è mancato un pezzo, ma chiaramente lui non potrà mai dire certe cose, no? Lui vuole combattere la precarietà, vuole combattere le morti sul lavoro, lo sfruttamento, tutte cose interessanti, però manca la controparte, cioè non è che queste cose qui sono opera del demonio. Chiaramente manca l'attacco ai padroni, ma Papa Francesco non è un papa con, insomma, rivoluzionario su quell'aspetto. Però io ho sentito fare dei discorsi sindacali da sindacalisti anche autorevoli, meno a sinistra di Papa Francesco, voglio essere onesto. Insomma, avete sentito il pezzo che ho messo all'inizio? Volevo sottolineare che sono i Foia, Sansone, il cantante che ha fatto questo bellissimo pezzo, La mano di Dios, ma prendendo spunto dalla famosissima canzone di Rodrigo. Adesso ci risentiremo per l'ennesima volta e io sono contento di essere stato a Roma. Verrà contestato sicuramente, mi diranno di tutti i colori, tutti i compagni, ma a me non interessa. Io sono stato contento di essere stato lì, di aver sentito comunque sia il mio segretario che comunque, sì, è stato bravo. Francesco a un certo punto gli ha detto anche un bravo questo ragazzo, insomma è stata anche simpatica la scenetta. Diciamo che comunque sia, certamente la lotta di classe non è una cosa per preti, questo lo sapevamo già. Ma anche se in Sud America c'è stato qualcuno che il mito l'ha preso, è anche esagerato in certo senso. Però chiaramente sta a noi cambiare le cose in questo paese, e l'appello ce l'ha fatto chiaramente, il sindacato deve essere più combattivo. Questo io penso che sia il messaggio che è venuto fuori da Roma, è un messaggio che noi recepiamo, sulle nostre posizioni chiaramente. Vi saluto e da meridionale dico viva l'Argentina e abbasso la Francia, scusate se sono di parte, ma io comunque, anche se preferisco sempre Maradona a Messi. Ciao a tutti. Nascette in mezzo a una via, come per sfizio in oddio, che ci facette capire che tutto non può fornire, rinda la periferia, cercando una buona via, pigliando a capo c'ha vita. Fammi le giorni su rai, sporche tu rene e dolore, capano solo pensiero a diventare un campione, porti speranze in te case, chi non ha avuto niente, e non vorrei che ho miseria. Vado a stavi sesura con l'occhio aperto a sonna e tutta gente cantai Maradò, Maradò e tutto stadio a luccai Maradò, Maradò in cielo come una stella senza paura fa guerra e tutta curva cantai Maradò, Maradò nascetta mani di As Maradò, Maradò facetto tutto contento ma sai mai questa terra portando un cuore a croce resserò mai per non si vennero mai a chi è padrone del mondo se è caduto Gesù perché non può cadere tu che ti aiutato ogni sfida a certo lo presentai un'amica vestuta bianca che faceva un pazzi non si sentiva mai stanca e fa cazzotto con tempo che non c'era rete niente si tiene l'anima vera e mo che è fornuta partita Diego non si può scordare e tutta gente cantai Maradò, Maradò e tutto stadio a luccai Maradò, Maradò lucevo come una stella senza paura e fa guerra e tutta gruppo cantai Maradò, Maradò nascetta mani di As Maradò, Maradò facetto tutto contento ma sai mai questa terra ole, ole, ole, ole Diego, Diego ole, ole, ole, ole Diego, Diego ole, ole, ole, ole Diego dicevo come una stella senza paura fa guerra e tutta curva cantai Maradò, Maradò nascetta mani di As Maradò, Maradò facetto tutto contento vasai a maiesta terra vasai a maiesta terra vasai a maiesta terra.